Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Tutte le nostre azioni sono state rivolte a sgombrare un po' per volta l'Italia da quel materiale che impedisce il funzionamento armonico di un'economia, che sono le rendite e i privilegi. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione, rendite e privilegi, nelle parole del Premier Mario Monti che avete appena ascoltato. Oggi iniziamo la nostra puntata richiamando la vostra attenzione su quei macigni, le rendite di posizione per l'appunto, che costituiscono un cancro che blocca gli ascensori sociali in Italia, che impedisce il farsi largo dei giovani outsider e in ultima analisi alimenta l'uscita dei migliori talenti dal paese. Un'uscita che conferma la scarsa attrattività della penisola a livello internazionale. La frase della settimana è copyright del direttore della Scuola Normale di Pisa, Fabio Beltram. Anche la Scuola Normale sconta la scarsa attrattività dei talenti migliori nei confronti dell'Italia, ha dichiarato Beltram, secondo cui pochi sono i giovani di talento che ci scelgono. Ciò significa che i migliori guardano altrove sul panorama internazionale e questo, dice, è un dato che deve far riflettere. Oggi puntata speciale del nostro programma che dedicheremo in particolare ai giovani emigrati da Bologna. Chiara, project manager nel Dipartimento dei Media Digitali. Guido, senior assistant engineer da Google. Stefano, professore associato. Chiara Bernasconi, 32enne a New York, a Guido Trotter, 31enne a Monaco di Baviera, e Stefano Zacchiroli, 33enne a Parigi, sono giovani professionisti bolognesi al lavoro in Europa. Della loro storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Una giovane italiana su tre vorrebbe emigrare. A lanciare l'allarme all'ultimo convegno Aspen il presidente dell'Istat Enrico Giovannini. L'intenzione di espatrio accomuna oltre 4 milioni di under 35 nella penisola. Allo stesso convegno il vicepresidente di Confindustria Ivan Lobello ha citato un'indagine Demopolis secondo cui il 61% dei giovani ritiene che, conclusi gli studi, troverà una posizione lavorativa inferiore rispetto a quella dei genitori. Ben il 78% è convinto che per un buon impiego servano le conoscenze giuste. Sempre per Lobello, 20.000 ricercatori italiani si sono perfezionati all'estero e lì sono rimasti. Il nostro è un paese rischioso, ha dichiarato Lobello a Corriere Economia. Si parla sempre di fuga di cervelli, quello di cui non ci accorgiamo è che da anni è in corso una fuga di talenti. I giovani migliori vanno all'estero e vengono saccheggiati dalle multinazionali. Bisogna fermare questa emorragia o ci impoveriremo troppo. A saccheggiarli ci sta pensando da tempo la Germania, nuovo polo di attrazione per i nostri talenti. 232.000 lavoratori italiani registrati nel 2012, Berlino, Stoccarda e Francoforte le città calamita. Alta preparazione, competenze ed esperienza, capacità di problem solving e flessibilità sono le caratteristiche più apprezzate tra i nostri giovani expats. I tedeschi cercano in particolare sempre più ingegneri italiani. E la conferma arriva dai documentari. Torniamo a parlare di Ciao Italia, documentario di Fausto Caviglia e Barbara Bernardi, interamente dedicato a 6 storie di migrazione dall'Italia verso Berlino. Abbiamo intervistato Fausto Caviglia. Ci sono diverse tipologie, no, di persone che arrivano a Berlino, dai giovani un po' ispirati da questa area un po' bohemienne della città. Negli ultimi tempi ci sono stati anche proprio dei professionisti che hanno lasciato l'Italia per andare a Berlino. Noi raccontiamo la storia di questi professionisti. Medici, architetti, insomma laureati che lasciano l'Italia e arrivano a Berlino in massa, diciamo. Arrivano da tutta l'Italia, questo è importante, giusto? Arrivano da tutta l'Italia e noi raccontiamo storie da Napoli, da Roma, da Firenze, di arrivi da tutte queste città, da Bologna, da Bolzano anche. Qual è il filo rosso che accomuna queste storie, secondo te? La perdita di amore nei confronti dell'Italia, purtroppo. Il tutto mentre peggiora la situazione nel bel paese. Il tasso di disoccupazione giovanile a settembre è tornato al 35,1%, peggio di noi in Europa solo Spagna, Grecia e Irlanda. Oltre 600.000 gli under 25 in cerca di impiego, la situazione dei giovani nel mercato del lavoro è definibile come drammatica per il ministro Elsa Fornero. Intanto nel secondo trimestre il tasso di impiego nell'area OCSE si è attestato al 65%, in leggero rialzo. In Europa è calato, sempre molto sotto la media, l'Italia solo 56,8%. L'occupazione nella penisola si è mantenuta pressoché stabile nel secondo trimestre, ma l'aumento dell'offerta di lavoro, concentrato tra giovani, donne e nelle regioni meridionali, ha sospinto il tasso di disoccupazione oltre il 10%. E quanto afferma la Banca d'Italia, secondo cui il peggioramento è stato ancora più marcato per la fascia under 25, qui il tasso di disoccupazione è salito di 6,6 punti. Italia, un paese dove studiare incredibilmente non serve. La laurea perde potere. Secondo l'Istat, nel primo trimestre 2012 si è rilevato un boom di disoccupati dottori. 304.000 le persone con un titolo di laurea e post laurea in cerca di lavoro su base annua, il rialzo è del 41,4%, la maggior parte sono donne. E secondo uno studio dell'Università Milanese Bicocca, la laurea non garantisce più lavori qualificati. Almeno un dottore su due dell'Università Milanese va a svolgere mansioni legate alla produzione, più concrete rispetto all'impiego in settori specializzati, retribuzioni mediamente intorno ai 1000 euro. Per l'agenzia Bachelor il numero di annunci di lavoro per laureati pubblicati nel secondo trimestre 2012 è diminuito del 7% rispetto a quello precedente e del 26% rispetto al 2011. Il mercato del lavoro per questa fascia si conferma fermo da almeno un anno, tra le offerte prevalgono gli stage. Neolaureati in fuga anche dalla ricca Lombardia. Secondo il rapporto Specula della Camera di Commercio di Milano, nel 2011 la regione ha dato lavoro a un numero inferiore di neodottori, meno 5,2%, spesso con impieghi sottoinquadrati, commesse, baristi o altro, e un aumento dei lavori in nero, in leggera crescita pure l'espatrio. Un neolaureato su tre in Lombardia è disoccupato a un anno dal titolo. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in ben tre paesi diversi, con un minimo comune denominatore però: la città di partenza, Bologna. Nome: Chiara. Stefano. Guido. Cognome: Bernasconi. Zacchioli. Trotter. Età: 32. 33. 31. Città di origine: Bologna. Bologna. Bologna. Studi: economia dell'arte alla Bocconi. Laurea e dottorato in informatica all'Università di Bologna. Università di Bologna informatica. Quale lavoro svolge attualmente? Project manager nel Dipartimento dei Media Digitali. Professore associato. Senior Systems Engineer a Google. Dove? Al MoMA, il Museo d'Arte Moderna di New York. Università Paris Diderot. Google Munich. Tornerai? Spero di sì. Non a breve termine, ma più avanti chissà. Forse per la pensione? Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. La splendida Bologna di Francesco Guccini, per introdurre una puntata speciale che oggi dedichiamo al capoluogo emiliano. Ci piace ogni tanto fare dei focus tematici all'interno di Giovani Talenti e lo spunto ce lo offre Expo, un gruppo di giovani bolognesi quasi tutti nati negli anni 70 e 80, per la maggior parte ora all'estero, come d'altronde tante migliaia di altri fili di questa Italia un po' smemorata e distratta quando si parla di giovani, merito e opportunità. Maria Chiara Prodi, cofondatrice dell'associazione. Cos'è Expo? Expo è una rete di bolognesi nel mondo nata nel 2008. Rifiutiamo la definizione di cervelli in fuga perché ci sentiamo piuttosto normalissimi figli della nostra generazione, che è una generazione in movimento, e soprattutto non troviamo interessante lamentarci della nostra condizione di immigrati, quanto piuttosto metterci in rete e darci da fare per accorciare le distanze tra il nostro paese e il resto del mondo. E andiamo allora, grazie Maria Chiara, a conoscere alcuni dei protagonisti di Expo. Premetto che anche per un'interessante casualità tutti i protagonisti di questa puntata hanno un fil rouge tecnologico ad accomunarli. Iniziamo con Chiara, che ci raggiunge da New York, una laurea in economia alle spalle all'Università Bocconi. Cosa ti ha spinto verso l'economia? Ho pensato a come avrei potuto contribuire al miglioramento della situazione dei beni culturali in Italia, e mi è sembrato che economia, in particolare lo studio dei diversi modelli di finanziamento della cultura, potesse essere un buon punto di partenza. Subito dopo la laurea è l'opportunità di approfondire lo studio delle nuove tecnologie nelle istituzioni culturali grazie a un Master in Arts Administration and Policy presso l'Art Institute di Chicago. Cosa ti ha portato negli Stati Uniti? Perché soprattutto hai scartato a priori l'idea di far fruttare la tua laurea in Italia? Sono andata a Chicago perché ho vinto una borsa di studio. I costi delle università americane sono piuttosto proibitivi. Mi sono resa conto ben presto che con una laurea in economia sarebbe stato difficile lavorare in un museo in Italia. Negli Stati Uniti, contemporaneamente al master, accumuli diverse esperienze di lavoro: assistente alla ricerca, project assistant, consulente, fino all'assunzione presso il prestigioso Museum of Modern Art. Sono stata assunta al MoMA dopo varie interviste rispondendo a un annuncio sul web. Quando lo racconto in Italia nessuno ci crede, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Chiara, ma che paese è? Un paese dove nessuno spera più di poter ottenere lavoro grazie agli annunci? Davvero, non so perché in Italia non esista un database dei lavori online, perché non vengono postati i lavori sui siti dell'istituzione stessa. Insomma, se anche sono postati, tutti pensano che i posti siano già assegnati. È un panorama abbastanza deprimente. E di cosa ti occupi esattamente al MoMA? Sono responsabile dei progetti che riguardano la comunicazione pubblica dei contenuti online del museo, quindi di fatto come il MoMA utilizza le nuove tecnologie, dal sito web, le applicazioni mobili, i chioschi interattivi. Quindi in generale ogni piattaforma, poi non ci si annoia mai perché ogni giorno ne nasce una nuova. Gli Stati Uniti sono sempre stati all'avanguardia in campo tecnologico, anche nel settore dell'arte, non solo al MoMA. Chiara, l'Italia ha un patrimonio culturale immenso, spesso abbandonato, sottoutilizzato. Quanta rivoluzione si può fare a livello culturale nella penisola, rendendo l'Italia un paese di riferimento a livello internazionale? Credo veramente le vecchie guardie si devono mettere da parte. Le nuove tecnologie sono dei giovani, gli standard nelle tecnologie sono gli stessi sia in tutto il mondo, non importa dove siamo fisicamente. Da Chiara, col suo messaggio generazionale, a Stefano Zacchiroli da New York a Parigi, in un viaggio tra bolognesi nel mondo. Stefano, tu ti laurei in informatica a Bologna, quale passione ti ha mosso verso questo settore? Come molti della mia generazione ho avuto un computer fin da piccolo, nel mio caso un Commodore 64, ci ho videogiocato, ma poi visto che i computer nascondevano poco di quello che c'era sotto all'epoca, ho scoperto la passione per la programmazione, che è un po' il gusto di poter creare qualcosa senza avere bisogno di infrastrutture complicate in un piccolo microcosmo che è un computer. Già da studente scopri l'interesse per il software libero o open source, il tuo amore per lo studio ti porta a intraprendere un dottorato di ricerca in informatica con soggiorni all'estero che ti arricchiscono immensamente. Qual è la principale differenza tra un dottorato in Italia e uno all'estero? Devo dire che è principalmente la motivazione. All'estero ho sempre avuto l'impressione che gli studenti di dottorato si sentano parte di un qualcosa e siano motivati a contribuire. Sanno perché sono lì, nonostante sia il dottorato sia un periodo psicologicamente difficile. In Italia invece ho sempre visto l'impressione che non si sa bene perché si sia lì e cosa si stia facendo, e in questo modo non si può essere troppo motivati. Alla fine del dottorato arriva l'occasione della vita, quella che non si può rifiutare, una posizione da postdoc per 3 anni all'Università Paris Diderot. Perché cercano proprio te? Mi sono trovato alla fine del dottorato con un profilo un po' eclettico. Ho fatto un dottorato in informatica teorica e in cosiddetti metodi formali dell'informatica, ma ero molto attivo e visibile nelle comunità open source o di software libero. Cercavano qualcuno per un progetto di ricerca che usava i metodi formali per studiare il software tipico del software libero, e in quell'intersezione di profili casualmente non eravamo così tanti in giro per il mondo a essere papabili. E in università vinci 2 concorsi, il che ti permette di scegliere la posizione di professore associato proprio a Paris Diderot. Sinceramente, Stefano, la Francia è un paese per giovani accademici, a differenza dell'Italia. Una carriera, insomma, è possibile oltre Alpe? Sì, assolutamente. Specie nell'informatica l'età media di assunzione a ruolo è molto più bassa che in Italia. L'aspettativa è che un dottorando, una volta finito il dottorato, in 1 o 2 anni trovi un posto. E paradossalmente io a 32 anni cominciavo ad essere vecchio. Mi avrebbero cominciato a chiedere cosa avevo fatto, perché arrivavo così tardi in un ruolo di professore associato. E inoltre hanno molti posti per l'informatica, questo è il problema fondamentale per l'informatica. Ancora più a est ora, approdiamo a Monaco di Baviera, dove ci attende Guido Trotter, tra l'altro fresco di approdo nel sud della Germania dopo diversi anni in Irlanda. Con te chiudiamo il cerchio tecnologico di questa puntata. Anche tu hai una laurea in informatica a Bologna. Cosa ti ha spinto verso il mondo dei computer, Guido? Come per Stefano, è una passione che coltivo fin da bambino. Mi interessava capire come funzionavano queste macchine, che erano molto interessanti, e dal capire è arrivata la passione per la programmazione e di conseguenza l'iscrizione all'università. Già da studente un periodo di scambio alla University of California a San Diego, collaborando con alcune aziende locali in qualità di consulente, e poi dopo la laurea scegli di emigrare. Perché l'Italia non è un posto attrattivo per giovani di talento? Dopo la laurea ho cercato lavoro sia in Italia e sia all'estero. Forte dell'esperienza anche in Italia, la differenza era che all'estero consideravano la mia esperienza e la volevano valutare, mentre in Italia trovavo solo opportunità di lavoro molto di base che non consideravano quanto avevo fatto precedentemente. Il tuo atterraggio è a Google Irlanda, dove sei diventato Senior System Engineer. Qui ho trovato le opportunità che cercavo, un lavoro gratificante dove sono personalmente responsabile del prodotto, dove le scelte vengono fatte in base a meriti tecnici e non si tratta di scelte che non vengono neppure motivate dal management, come accadeva spesso in Italia. Così ci scrivi. Guido, in Italia i risultati prodotti e le capacità dimostrate contano meno che altrove. Non penso che contino meno, ma penso che sia più difficile ottenere gli stessi risultati, perché è più difficile convincere il management a dare le opportunità per ottenerli. E ora una rapida riflessione per ciascuno di voi, che sostituisce la nostra domanda di rito, anche se come vedremo vi è strettamente collegata. Chiara, a giovanitalenti@radio24.it scrivi: cosa dovrebbe cambiare affinché tu possa tornare in Italia? In breve spiegacelo. Sicuramente più apertura, a creare dei team di lavoro motivati in un ambiente positivo, tollerante, competitivo, sano e con un budget decente. Stefano, tu di tornare in Italia non lo escludi, ti consideri un cittadino europeo, però c'è qualcosa che ti preoccupa: la scarsa attrattività del sistema paese. Cosa scoraggia i giovani talenti europei a venire a investire il proprio futuro qui? Per quanto riguarda l'università, è sicuramente la cattiva reputazione del sistema accademico italiano, che non è cattiva reputazione della ricerca, che invece è ottima. Abbiamo spesso e meritatamente la fama di avere concorsi non meritocratici, burocrazia assurda, stipendi bassi a inizio carriera, poche risorse per la ricerca, dipartimenti poco internazionali, eccetera. Non è che negli altri stati europei tutti questi punti siano meglio, ma il loro insieme in Italia fa sì che gli stranieri o gli italiani che sono immigrati non sono certo invogliati a venire da noi. Guido, perché l'Italia non è per te un luogo in grado di offrirti oggi qualcosa di concorrenziale rispetto alla Germania? Quali sono i punti critici, il gap di capacità di attrazione dei talenti che ci separa dal nord Europa? Credo che sia la mentalità che non crede nelle persone e le usa semplicemente come costi e al minimo, quindi non credendo nelle persone non si crea una situazione aziendale in cui si possa veramente creare qualcosa. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Puntata speciale oggi con tre dei rappresentanti di Expo, associazione che riunisce decine di giovani bolognesi all'estero. Vi abbiamo raccontato sin qui la storia di Chiara Bernasconi, 32enne Digital Media Project Manager al MoMA di New York, Stefano Zacchiroli, 33enne professore associato all'Università Paris Diderot e Guido Trotter, 31enne Senior System Engineer a Google, sede di Monaco di Baviera. Attraverso le loro storie, soprattutto considerando il forte legame associativo con la città di origine, stiamo indagando come possa essere possibile una riconnessione tra l'Italia e i suoi migliori giovani talenti espatriati. Ci raggiunge nuovamente in linea Maria Chiara Prodi, cofondatrice di Expo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Maria Chiara, parliamo rapidamente di te. Quale lavoro fai a Parigi? Come ci sei arrivata e soprattutto perché hai scelto la Francia come approdo lavorativo? Io lavoro come coordinatrice artistica all'Opéra Comique di Parigi, che è un teatro d'opera. Sono arrivata a Parigi prima con l'Erasmus e poi con il Leonardo, alla fine del quale sono stata assunta dalla direzione della musica di Radio France e dopo un passaggio al Festival di Aix-en-Provence ho cominciato a lavorare all'Opéra Comique. Diciamo quindi che la Francia non è stata una scelta consapevole, ma più che altro il concatenarsi di occasioni irrinunciabili. Anche tu fai parte della vasta schiera di expats italiani. Expo nasce nelle feste di Natale di 4 anni fa durante uno dei vostri ritrovi. Ritrovi che con il crescere di numero di giovani all'estero fa aumentare la consapevolezza che quella degli espatriati è ormai una vera e propria categoria sociale. Allora, qual è il tratto distintivo di questa categoria, Maria Chiara, ma soprattutto l'Italia se ne è accorta? Il tratto distintivo è proprio quello di non percepirsi come categoria sociale. Ognuno emigra con una sua storia personale e l'Italia purtroppo non ha strumenti efficaci per osservare questo fenomeno ed elaborare delle proposte. Ce ne andiamo uno dopo l'altro, goccia dopo goccia, e non riusciamo a formare un fiume. Ecco, Expo vuole essere, diciamo, un piccolo ruccello bolognese, una controtendenza per mostrare che non spariamo dalla cartografia della cittadinanza solo perché varchiamo una frontiera, ma possiamo anzi essere una risorsa. Sarebbe interessante se altre città vi imitassero. Expo aggrega in pochi anni 100 soci, produce il book delle risorse perse e attraverso un metodo partecipativo punta a far diventare ciascuno di voi un nodo di informazione, come tu stessa ci scrivi. Maria Chiara, in che modo, come ciascuno di voi riesce ad essere, definiamolo così, un agente del cambiamento? Ciascuno di noi ha delle proprie competenze professionali specifiche e poi ci sono quelle che gli vengono dagli stimoli del paese in cui vive. Concretamente abbiamo raccolto queste competenze nel book che citavi tu, che è anche disponibile sul sito expo.org, per trasformare questo potenziale da risorse perse in risorse sparse, come amiamo dire, e metterlo al servizio della nostra città. A volte agiamo come singoli, a volte come rete. Stefano, per esempio, ha partecipato al comitato scientifico dell'agenda digitale del Comune di Bologna. Abbiamo invece coralmente curato un dossier sull'internazionalizzazione dell'università su richiesta dell'ex rettore. E veniamo sollecitati da redazioni di quotidiani e periodici bolognesi o anche da associazioni come Libera e da istituzioni come il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna che ci hanno seguito sin dall'inizio. E un ruolo importante in Expo lo giocano anche i giovani che vivono tuttora a Bologna, sono un terzo del totale dei vostri associati. Come è stata la saldatura, diciamo così, tra chi è partito e chi è rimasto? La saldatura non è stata necessaria perché in realtà il nucleo originario è fatto da gente che è partita e gente che è rimasta e siamo fieri di lavorare insieme. Anche perché detestiamo l'idea che si crei un muro di diffidenza, no? Basato sullo stereotipo che chi resta accetta per forza dei compromessi e chi parte abbandona per forza la causa. Tanto più che tanti progetti nascono da persone che sono partite e poi tornate e forse domani ripartono e penso per esempio ad alcune eccellenze bolognesi come On Movies o la recentissima realtà di Kinodromo. Chiara, Stefano e Guido, in un flash vi chiedo quanto ritenete importante la riconnessione tra giovani all'estero e il sistema Italia. Può essere questa la base di rinnovamento del sistema paese e di un ringiovanimento della sua classe dirigente? Chiara? Assolutamente fondamentale, non dobbiamo avere paura di essere generosi a parte allo scambio di informazioni, di esperienze, veramente per creare una rete di sostegno, di mentors. Stefano? Penso che il rinnovamento deve venire principalmente di chi lavora in Italia e contribuisce al paese, ma chi è emigrato può essere una risorsa in molti modi, ad esempio nel condividere buone pratiche che impariamo all'estero. A volte per migliorare basta copiare quello che gli altri fanno bene. Guido? Sono d'accordo con Stefano, la riconnessione può essere importante, ma non può essere la sola base del cambiamento, ci vuole un'attività da chi è in Italia. Maria Chiara, tante le attività che avete organizzato finora, la prossima il 28 e 29 dicembre all'Urban Center di Bologna. Domanda chiave per te: come sta reagendo la vostra città a questa, diciamo così, invasione delle Expo? Non abbiamo alcun mezzo finanziario, quindi la città ci scopre piano piano attraverso le reti sociali che si attivano secondo progetti e appunto gli incontri annuali che organizziamo. Diciamo che vorremmo un megafono per dire a tutti gli immigrati isolati di raggrupparsi, e oggi questo megafono ce l'offri tu e ci fa piacere sfruttarlo, quindi venite a trovarci il 28-29 dicembre, scriveteci a info@texbo.org e magari appunto creiamo reti in tutte le città. Grazie a Maria Chiara Prodi e in bocca al lupo per il vostro lavoro. E in un flash, un consiglio che Chiara, Stefano e Guido possono dare a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio. Chiara? Pensare al mondo come una rete di contatti senza focalizzarsi sugli ostacoli geografici. Stefano? Non vivetelo come un dramma o come una scelta irreversibile. Non andatevene sbattendo la porta. La mobilità europea deve essere la normalità. Guido? Non guardate all'estero come una sconfitta, fuga o via d'uscita. È solo una delle altre opportunità da valutare al pari delle altre. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: uno Human Resources Manager per il consorzio ICAN a Bruxelles, scadenza per CV 8 novembre, info a icancareers.silkroad.com. Un Executive Secretary al College of Europe, sede di Varsavia, richiesto il Master, scadenza per CV 6 novembre, info a coleurope.eu. E infine un ricercatore specializzato in epidemiologia alla sede di Lione dell'OMS, scadenza per CV 9 novembre, info a irecruit.who.int. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi ultima puntata della nostra inchiesta sui 10 motivi che fanno fuggire i migliori talenti dall'Italia. La decima ragione che abbiamo individuato è il welfare, scarso, maledettamente insufficiente nella penisola se paragonato ad altri paesi europei. Stefano Sacchi, politologo dell'Università di Milano e del Collegio Carlo Alberto di Torino. In Italia c'è una sproporzione, mettiamola così, tra le risorse detenute dai più giovani rispetto a quelle detenute dai cittadini nelle altre fasce d'età e anche dai cittadini anziani. C'è un problema molto forte in Italia di welfare e tutele che lo Stato dà ai giovani, a partire, che so, dal reddito minimo garantito, insomma. Che non c'è. Però quanto è grave la situazione in Italia, secondo te? Le tutele offerte dal welfare italiano sono tendenzialmente parche, sono poco generose nei confronti dei giovani. Se guardiamo ad esempio, diciamo, la quota di spesa sociale che va ai giovani, includendo in questa spesa sociale anche la spesa per istruzione, che quindi tendenzialmente ovviamente va in misura maggiore ai giovani, vediamo come, confrontando l'Italia con altri paesi, con le altre economie avanzate, cioè con i paesi OCSE, la quota è significativamente inferiore, cioè diciamo intorno al 25% di questa spesa a fronte di più del 30%, quasi 35% negli altri paesi avanzati. Cosa si potrebbe fare allora per migliorare il welfare dei giovani in Italia in modo da evitare che espatrino o vadano all'estero? In primo luogo sussidi di disoccupazione che siano accessibili anche da parte dei giovani. Certamente in Italia scontiamo l'assenza di un reddito minimo garantito, che è presente in tutti gli altri paesi europei e che quindi è accessibile sia da parte dei giovani che non hanno un'occupazione, sia da parte dei giovani, in particolare giovani che hanno contratti a termine e così via, che hanno un ridotto accesso ai sussidi di disoccupazione, per i quali i sussidi di disoccupazione durano poco e quindi in Italia restano senza tutele. Inoltre occorrerebbero anche politiche abitative che consentano ai giovani di uscire dalla famiglia di origine. Noi sappiamo che in Italia circa il 60% dei giovani vive con la famiglia d'origine. Occorrerebbero sussidi per l'istruzione, quindi borse di studio e prestiti agevolati, e anche maggiori servizi per i bambini in età prescolare. Un motivo per restare.